per tutti cambia su Digitale Terrestre, su piattaforma Digitale Terrestre. Rai ha deciso di trasmettere questo evento in formato 16 noni nativo. Quindi sarà un grande vantaggio sia in termini di, come dire, riempimento dello schermo per tutti i tantissimi oramai possessori di TV widescreen, cioè in formato 16 noni, e soprattutto in termini di risoluzione, perché avendo un segnale 16 noni visto su un TV 16 noni, la qualità ha un incremento in termini di dettaglio di circa il 30%, quindi sicuramente una cosa molto buona. Finalmente iniziamo a usare i TV 16 noni per quello che possono fare. E quindi l'immagine sarà trasmessa solo su Digitale Terrestre per tutta Italia in formato 16 noni, mentre l'analogico continuerà ad andare in onda in formato 4 terzi, quindi il cosiddetto simulcast, quello che viene chiamato simulcast in termine tecnico, quindi la Rai trasmetterà entrambi i segnali contemporaneamente in maniera differente a seconda della piattaforma. Con l'inizio degli europei inizia anche una, chiamiamola sperimentazione, perché per il momento è limitata in alcune zone, ovvero Rai ha deciso di trasmettere questo evento sempre sul digitale terrestre e in alcune zone in alta definizione. Dove si potrà vedere questo evento in alta Sì, definizione? questo è un grande debutto perché è la prima volta che Rai trasmette in alta definizione su Digitale Terrestre. Diciamo, è la prima volta che in Italia si trasmette dei contenuti veramente in alta definizione su Digitale Terrestre, ma sarà possibile visualizzarli soltanto nelle aree di Milano, Torino, Roma e nelle cosiddette aree All Digital, quindi Val d'Aosta e Sardegna. Sul multiplex B. Quello di Rai, Multiplex B, quindi quello non quello che contiene Rai 1, Rai 2, Rai 3, ma quello che contiene Rai Utile, Rai Sport e altri canali di questo tipo. Però attenzione, perché non in tutte le zone delle città che tu hai descritto. Diciamo che sarà un impianto di trasmissione coinvolto, quindi per esempio prendiamo il caso di Milano, questo segnale verrà trasmesso dall'antenna di Corso Sempione, tutte le zone di Milano illuminate da questa antenna e anche quindi zone dell'Interland potranno ricevere quel segnale in alta definizione, ma in alcune aree di Milano per esempio si punta l'antenna condominiale verso altri impianti che magari garantiscono una ricezione migliore. Ecco, se si puntano verso altri impianti non si potrà godere di questo segnale in alta definizione. Essere in un'area, diciamo, illuminata, come si dice in termine tecnico, dall'antenna che trasmette in alta definizione, però non è l'unico requisito necessario per poter vedere in alta definizione gli Esatto, europei. quindi di che cosa abbiamo bisogno in casa per vedere una partita in alta definizione? Qua ricordiamo che stiamo parlando, come tu hai giustamente detto, di alta definizione vera e propria, quindi il segnale viene ripreso in alta definizione e poi trasmesso in alta definizione. Quindi non ci sono degli escamotage tecnologici come sono stati fatti in passato, come vengono fatti in alcune zone. No, non è il cosiddetto upscaling, cioè non viene semplicemente riscalata verso l'alto l'immagine a standard definition. Questi eventi oramai vengono girati e prodotti a livello internazionale in alta definizione, a risoluzione di 1920x1080, quindi Full HD. E la Rai ha i diritti per questo pacchetto e prova in questo caso per la prima volta a trasmettere. Ricordiamo che la trasmissione è totalmente gratuita, quindi non è a pagamento. L'unico vincolo è che bisogna avere un apparato di ricezione per l'alta definizione.